música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Vedo nel Fight Club gli uomini più forti e intelligenti mai esistiti. Vedo tutto questo potenziale e lo vedo sprecato. Porca puttana, un'intera generazione che pompa benzina. Serve ai tavoli, o schiavi coi colletti bianchi. La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti. Fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Non è detto che la reazione di tutte le persone che mi stanno ascoltando debba essere la medesima di Edward Norton, il consulente di una grande assicurazione che improvvisamente incontra il diabolico Brad Pitt e capisce cos'è il Fight Club, il luogo dove i veri uomini si incontravano di notte, si massacravano di botte per riacquistare una corporeità che ormai era diluita, era completamente disciolta in questa frenesia del quotidiano. Lui viveva assorbito dai cataloghi dell'IKEA, immobili, beni di consumo, cose carine, colorate, belle, che appagavano ogni concupiscenza, ogni lussura, ogni desiderio di espandersi oltre il proprio corpo. Beh, non è che bisogna necessariamente prendersi a botte, fare a pugni e reagire in maniera sanguinosa a questa profonda, inarrestabile lussura per la merce che proviamo ogni giorno. Ogni giorno noi sappiamo che per gratificarci, per appagarci, per uscire dalla mestizia che ci infonde il quotidiano, dobbiamo acquistare qualcosa. E quando non è sufficiente il nostro budget personale per acquistare, è sufficiente a volte come il poveretto che impregna il proprio tozzo di pane nel fumo dell'arrosto del ricco, è sufficiente guardare, è sufficiente passare davanti ai negozi, è sufficiente lasciarsi inebriare dagli oggetti, dalla maniera in cui sono esposti e dai colori che ci mostrano, dalle confezioni. Passare attraverso i banchi di un negozio è, e mi mette tristezza a pensarlo, l'operazione più gratificante che oggi possa fare un essere umano. Questa mattina, come avete sentito dal nostro giornale radio, ma come vedo anche nei titoli dei giornali o davanti la pagina economica di Repubblica, 4 italiani su 10 alla notizia riducono i consumi, travestiti, viaggi e ristoranti. Quindi già premetto quella che sarà la massima eccezione che mi può essermi sollevata questa mattina. Ah, Nicoletti, c'è una parlare di acquisti, di negozi, di merce, di lussura dell'acquisto in un momento in cui tutti tiriamo la cinghia. Ma adesso bisogna parlarne. Adesso è come far entrare Monica Bellucci dentro un seminario. Questo è il momento in cui bisogna parlare della massima lussura dell'acquistare. Come tanti altri, anch'io ero diventato schiavo della tendenza al nido IKEA. Ah, sì, vorrei ordinare la balza antipolvere di Erika Peccari. Attenda, prego. Se vedevo qualcosa di ingegnoso come un tavolinetto a forma di yin-yang, dovevo averlo. Il componibile personale per l'ufficio della Klipsk, la cicletta della Overtrek, il divano a mashab a strisce verdi della Strin. Perfino le lampade a filo rislampa fatte di carta non candeggiata per un ambiente rilassante. Sfogliavo quei cataloghi e mi domandavo quale tipo di salotto mi caratterizza come persona. Avevo tutto, anche i piatti. A me piace, devo dire, andare nei negozi in cui vendono mobili e accessori per la casa, non perché ne abbia bisogno. La mia casa non potrebbe contenere fisicamente nei suoi spazi più di quello che già contiene. Però mi piace, il mio sogno di bambino è sempre stato quello di rimanere rinchiuso in un grande mobilificio, di essere padrone di tutte le camere da letto, di tutte le cucine, di tutti i salotti, di tutti i tinelli possibili e immaginabili, e passare, saltellare, magari non solo, forse anche in buona compagnia, di notte dall'uno all'altro di questi luoghi in cui si espone. Pensate come sono i mobilifici quando non c'è nessuno, quando i mobili riacquistano la loro funzione primaria, di essere oggetti che non dare consistenza alla vita delle persone. E invece sono merce, sono cose che guardiamo, sono cose che immaginiamo, sono cose che alluciniamo, sono cose che desiderandole ci danno il senso dell'esistenza quando esistere non è più sufficiente per sentirsi esseri umani. Quando compri dei mobili tu dici a te stesso: non avrò mai più bisogno di comprare un divano, qualunque cosa capiti il problema del divano è risolto. Avevo tutto, avevo uno stereo piuttosto decente, un guardaroba che stava cominciando a diventare rispettabilissimo. Sai cos'è un piumino? Una trapunta. Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo? Siamo consumatori. Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. 800240024. Basta con questo senso di colpa, di sentirsi qualcosa di inferiore rispetto alla categoria di dignità umana, perché siamo dei consumatori. Parliamo oggi del piacere di essere consumatori, della lussura del consumare, dell'immensa voluttà di passare attraverso dei luoghi in cui è esposta la merce. Merce da desiderare, noi la desideriamo come si passasse attraverso una rassegna di persone meravigliose che ci promettono delizie inimmaginabili. Ecco, la merce si anima, diventa qualcosa che ci si offre, e in questa offerta continua noi probabilmente ci sentiamo vivi. È illusione, è schiavismo, chiamatela come volete, a tutti piace acquistare. Io sono un caso particolare, guardate, vi racconto un episodio mentre voi telefonate all'800240024 e parlate di questa vostra inconfessabile colpa. Oggi tutto si racconta, le peggiori abiezioni, i desideri più inconfessabili, i tradimenti, le lussure, gli ammucchiamenti, le truffe, i tradimenti, tutto è raccontabile meno confessare che piace e che appaga acquistare. Essere un oggetto nei confronti della grande macchina di esposizione della merce. Dicevo, io sono un caso a parte. Io odio acquistare, mi piace molto però passare. Sono un voyeur della merce, ecco, diciamo così. Sarei un pessimo consumatore. Non credo aver mai avuto un abito confezionato se non l'abito della prima comunione di quando avevo 9 anni. Sono passati secoli. Poi una gruppi ascoltatrice mi convinse a farmi fare un abito su misura. Faceva la personal dresser, venne a misurarmi nella notte della passione e mi fece costruire da una delle sue operanti un meraviglioso abito. Beh, lo tengo ancora dentro una busta. Non ho il coraggio di metterlo perché è talmente bello che non appartiene alla mia possibilità di usufruire e godere di un oggetto così meraviglioso. L'ho scelto nero perché penso così mi sarà utile, almeno ci sarà un momento nella vita o dopo la vita che potrò indossare quell'abituccio nero. Ogni tanto lo tiro fuori dalla sua custodia, lo guardo, lo rimiro, lo accarezzo, è perfetto. C'è anche i bottoncini che si sbottonano nelle maniche della giacca. Accessorio che invidiava Marzullo ai tempi che stavo in Rai. Non ho mai avuto una giacca sbottonabile. Beh, quello per me è il massimo possibile del raggiungimento del piacere della merce, ma non vorrei mai possedere la merce, vorrei soltanto guardarla. E quindi questa mattina vi elenco una serie di casi patologici che fortunatamente, gloriosamente, gioiosamente hanno confessato la loro passione per l'acquisto, ma non sempre per l'acquisto, anche semplicemente per il palpeggiamento della merce. 800240024. Ho 36 anni e vivo a Roma. Dedico allo shopping, diciamo, maggior parte del mio tempo. Le cose che me esercitano di più attrazione sicuramente è la confezione, il colore e come sono esposte. Il colore mi colpisce moltissimo, il colore, anche la forma. Quando entro in un negozio c'è qualcosa che appunto mi colpisce, che può essere il modo dell'esposizione, il colore, la forma, l'oggetto, e allora vado lì proprio in maniera mirata, diretta. Visto quello che mi ha colpito, esco, me ne vado, la compro ovviamente. Ieri avevo messo su Facebook l'annuncio che oggi avrei voluto parlare di questo argomento, del voyeurismo da merce, del desiderio irrefrenabile di sentirsi meglio, di gratificarsi, di fare un regalo alla propria autostima andando in giro per negozi. Beh, sono stato sommerso da persone che volontariamente hanno deciso di togliersi questo peso dallo stomaco. Tutta questa cosa, insomma, dell'accumulo mi sta spaventando, non mi piace più. Quindi adesso sono molto più oculata anche nella scelta. Quindi c'è questo fatto del ritornare eventualmente a vedere la cosa che mi ha colpito, perché ho visto che spesso e volentieri l'acquisto compulsivo, poi tornata a casa, non, l'effetto svanisce, tutta quella seduzione è svanita, quindi cerco di non ricaderci più. Ritorno a vedere l'oggetto che mi aveva colpito, lo valuto per bene stavolta, e poi non è detto che lo compri. Devo dire che per l'acquistatrice lussuriosa e vogliosa la merce equivale a quello che è il passeggio in una piccola via di provincia. Il vitellone di provincia, seduto al bar, vede passare e ripassare come fossero oggetti, e per questo mi meriterò la lapidazione, ma esattamente così, le donne e le ragazze belle del paese. E non fa nulla per accostarle, per avere con loro un contatto, una relazione. Le guarda, le soppesa, e comunque ogni giorno rivaluta questo passaggio e si apposta nei posti strategici per vederle passare. Beh, la stessa cosa. C'è una sorta di appuntamento rituale con la merce che è un appagamento, una lussura dello sguardo, è una lussura dei sensi, ma non mai arriva all'atto estremo del possesso, dell'acquisto, e ci arriverà sempre meno probabilmente. Ma non è detto che questo diminuisca il piacere dell'acquistatrice compulsiva. Sono vittima anche di tutti questi punti vendita dei cinesi, no? Di questi punti vendita a un euro. Con questa scusa della spesa minima, io veramente sono uscita con le cose più inutili di questo mondo, che comunque nella mia testa potevano servire, e quindi tante volte mi è successo, cioè dalla presina al sapone o cose di questo tipo. Ce n'ho 72.000, capisci qual è il mio problema? Ecco, questo non me lo immaginavo. I negozi dei cinesi sono anche per me un'attrazione irresistibile. I cinesi sono bravissimi perché condensano in spazi minimi una quantità di merce inimmaginabile. Quello che riescono a mettere i cinesi in mezzo metro quadro non lo mette un negozio normalmente in 100 metri di esposizione. E poi, avendo una passione particolare per la tecnologia inutile, a me quell'insieme di LED, di prese, di connettori mi affascina, non so cosa servono. Ecco, lì veramente lascio buona parte delle mie risorse economiche. Il mio vero peccato di gola è nei negozi dei cinesi. Sono cose inutili che poi sono belle, accendono le lucine, non servono, poi magari i mouse non funzionano, le chiavette USB durano pochissimo, si perde un sacco di dati, un sacco di memoria, però sono belli, sono colorati, hanno l'impressione di avere una vita, sono le vere e proprie fidanzate automatiche. L'ultima è stata proprio questa, il tostapane. Tostapane fa solo quello ed è un oggetto ingombrante e inutile. Io sono entrata ed uscita da un certo negozio per 3 giorni. Al terzo giorno l'ho comprato. Sono tornata a casa e lì ho detto veramente che cavolo ho fatto, perché io il pane me lo posso tostare pure dentro il forno. Mi sono pentita amaramente. Io ho la fissazione del blu, quindi io non l'avrei mai comprato se non fosse stato blu. Quindi ho anche girato parecchio per trovare un tostapane blu. L'idea di avere l'ennesimo oggetto in cucina per di più blu ha fatto sì che poi alla fine io cedessi a questa cosa, perché ho pensato, se poi ci ripenso, quando lo ritrovo io un tostapane blu? Perché se no non ne esci fuori durante la giornata. Oh, questi sono i problemi della vita. Beh, mi dice poco Maria Pia, un tostapane blu, un momento di felicità quotidiano ogni giorno che lo guardo. Io feci argomento di trasmissione anni passati sul mio acquisto di un forno a microonde, inutile, mai utilizzato, mai usato. Adesso lo usano come armadietto, ci mettono dentro i bambini gli avanzi, le loro merendine, i loro panini con la Nutella e cose del genere. Non serve come forno a microonde, è anche staccata la spina, e sopra ci appoggiano come supporto i padellini sporchi prima di metterli dentro la lavapiatti. Eppure mi affascinava, perché era bello, era lucido, era fatto di acciaio, mi sembrava un oggetto meraviglioso. Ho passato mesi per capire come funzionasse, ho provato a fare qualche modesto e sfortunato tentativo, e quindi è ormai relegato a rango di supporto. Però per me rappresenta qualcosa di importante, mi piace vederlo la mattina. Quindi la merce ci seduce attraverso segni esteriori, non sempre casuali. Ci sono persone che studiano la maniera per rendere seducente la merce, e di questo ci parla questa mattina il nostro primo ospite, che è la professoressa Paola Tucci. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Docente Tucci. Carla Tucci, non Paola. Oh, scusi, mi hanno scritto Paola sulla scaletta. Bene, Carla Tucci, infatti, ho il suo libro in mano, La vendita visiva, Franco Angeli, strategie tecniche di visual merchandising. Ecco, lei insegna alla scuola... Io insegno una... lo dica lei, così non mi sbaglio più. ...prestigiosa scuola di fashion design e marketing di Firenze, che si chiama Polimoda. Perfetto. Lei ha studiato quelle che sono le strategie nell'esporre la merce, che vanno dal colore, dalla confezione... Dal colore. Dall'illuminazione. Dalla composizione grafica dei vari prodotti, E quindi anche l'atteggiamento del consumatore di fronte a questa proposta. Naturalmente va detto che le dinamiche della vendita e della promozione ormai non sono più legate, come avete già enunciato, al soddisfacimento dei bisogni primari, ma più legati alla sfera dei desideri, dei sogni e delle aspettative più complesse che si legano a caratteri culturali, sociali e psicologici. Cioè, come un'edicola che espone le riviste scollacciate, diciamo, ci appaga l'occhio, non necessariamente poi le compriamo, però ci contaminiamo comunque con quella roba. Certo. L'edicola che espone quel tipo di prodotti, naturalmente per attirare e incuriosire chi guarda ma non ha il coraggio di comprare, poi magari comprerà un altro giornale, cioè quello potrebbe essere un elemento, ecco, di attrazione. Questo tipo di meccanismo applicato alla vetrina di un negozio, come si concretizza nella scelta dei colori, della disposizione degli oggetti, nel componimento? Innanzitutto il discorso, l'elemento principale è quello di presentare un lifestyle, quindi di raccontare una storia attraverso la esposizione di oggetti coerenti fra loro che servano a rappresentare un lifestyle. Quindi un'alternativa al quotidiano di chi passa davanti a quel negozio. Esatto, una proposta. E quando, diciamo, la proposta è sempre più insolita, cioè diciamo un lifestyle sognato ma mai avuto il coraggio di realizzare, diventa ancora più seduttiva. Quindi propone un'uscita dal mondo temporaneo al negozio. Un'uscita dal mondo temporaneo e un inserirsi in un altro mondo. Questo non è solo un discorso legato solo a un'esposizione in vetrina. Sempre di più i negozi diventano promotori nel loro insieme di un lifestyle. Senta, l'aspetto olfattivo comincia a contare, io comincio a sentire nei negozi dei profumi e degli odori. Esatto. Quei negozi che vendono i saponcini insieme ai vestiti, oppure quei grossi macigni di pappetta rosa che dà l'impressione di qualcosa di antico fatto dalla nonna che fa bene alla pelle. Certo. Non a caso i grandi brand nei loro negozi hanno i loro profumi distintivi, perché effettivamente è sempre legato al discorso di presentare uno stile di vita complessivo, per cui sì, però si mira alla sinestesia, cioè al colpire tutti i sensi contemporaneamente, sollecitare quelle che sono le diverse pulsioni e le diverse esperienze, sia questa non solo visiva ma tattile, olfattiva, sonora. Questo porterà Valentina a consumare in tempo, penso breve, ma può essere anche lunghissimo, il suo budget personale. Valentina, buongiorno. Buongiorno. Lei spende anche 1.000 euro al giorno. Spero che sia ricchissima, che possa avere una vita lunga e dispendiosa. Direi di no. Però io amo molto le cose belle, amo la perfezione e mi trovo concorde su quello che stavo ascoltando. Effettivamente il presentare, il vedere le cose, certi oggetti nelle vetrine, io penso all'abbigliamento per quello che mi riguarda, alle borse, agli accessori, vederli presentati in un certo modo, belli, perfetti, di marca, esercitano su di me un'attrazione veramente irresistibile. Senta Valentina, visto che lei ama il piacere mercenario, quindi compra oggetti per prezzi abbastanza alti rispetto al potere d'acquisto medio dell'italiano, quando poi li porta a casa sua, ha l'impressione che sia la mattina quando ci si sveglia con un amante meraviglioso accanto e lo si vede del disfacimento della naturalità? Cioè la borsetta quando esce dal profumo, dal negozio, dalla cornice, cosa rappresenta a casa sua? Beh, qualche volta sì, questa impressione non nascondo che c'è, però di fatto mi sento, magari perché mi sento colpevole, ecco, riconduco a questo, mi sento colpevole e dico, ma in fondo ho comprato una cosa che costa un sacco di soldi, ma magari se la compravo dal cinese avrebbe avuto lo stesso effetto. Beh, diciamo che tutte le botte di vita in realtà danno qualche piccolo senso di colpa, ma questo aumenta il piacere di riprovarci un'altra volta. No, poi sì, io comunque in genere sono soddisfatta dei miei acquisti, ho i sensi di colpa perché ho paura che mio marito se ne accorga, ho paura che i colleghi mi dicano ah tu compri, sei ricca, ho paura del tutto sommato dell'impatto che ho sugli altri. Perché però... è una vergogna essere ricchi secondo lei? No, assolutamente. Tutti vorremmo essere ricchi. Ma io non lo sono, però mi piace comprare le cose belle. E quindi magari rispetto ad altre persone preferisco spendere il mio budget in una cosa bella ma inutile piuttosto che tante ma che hanno un'utilità. Come diceva il costruttore al replicante di Blade Runner, sei come una candela che brucia da tutte e due le parti, e quindi lei se la brucia e probabilmente arriverà al 10 del mese che avrà finito i soldi, ma avrà vissuto alla grande. Grazie alla professoressa Carla Tucci, grazie a Valentina, acquistatrice compulsiva e mercenaria fruitrice del piacere della merce. Melog 2.0. Ahimè, stiamo facendo un'operazione scellerata di cui dovremmo rispondere davanti agli uomini probabilmente. In un momento in cui tutti proclamano l'astensionismo, l'improvvisa castità e la voglia di pudicizia nei confronti della merce, gli italiani che si sentono, ahimè, colpiti da una crisi economica, noi stiamo invece rivelando quello che è il massimo piacere, la lussura dell'acquisto, perlomeno della contemplazione della merce. Ciò dimostra che proprio nei momenti di crisi è l'esatto istante in cui bisogna proclamare la nostra disponibilità a gratificarci acquistando. Dirò qualcosa che va contro ogni regola morale, umana: acquistare, essere considerati dal mercato semplicemente un oggetto passivo che deve essere sedotto. Sì, ma a noi piace essere sedotti. Se in questo momento, se in questa particolare composizione del nostro passaggio esistenziale, la merce è il più seduttivo degli argomenti che abbiamo attorno, lasciamoci andare alla merce. Non possiamo rinunciare al piacere profondo di essere stimolati nei nostri sensi, nel nostro desiderio di gratificarci. Quindi ben vengano i malati della merce, come ad esempio la signora che abbiamo al telefono, che è Anna. Anna, buongiorno. Buongiorno. Lei è malatissima dall'acquisto, vero? Io sono malatissima. Ma però è contenta, è contenta di esserlo. No, non sono contenta perché poi nascondo anche le cose. Ma le dà piacere o no? Le dà piacere? Beh, tutti i piaceri vanno nascosti e sono vergognosi. Mi fa piacere cercarle le cose, cercare l'offerta, cercare la cosa bella che costa poco, quindi giro i mercati e tante volte compro cose che poi non metterò mai e che finiscono nell'armadio. Ma se noi definiamo l'acquisto un piacere, una volta tanto, ringraziamo il Padre Eterno sempre, ogni istante per questo, ma è una società in cui i bisogni primari, bene o male, riusciamo a procurarci. Quindi siamo circondati da una sovrabbondanza di offerta. Quindi tutto quello che ci viene offerto in più rispetto al nostro bisogno primario è offerto per il nostro piacere. Quindi è chiaro che nei limiti del possibile, senza fare debiti, senza crearsi situazioni incresciose, se noi andiamo per mercatini e ci piace guardare, portarci a casa qualcosa, abbiamo fatto qualcosa per noi in fondo, perché dobbiamo sentirlo sempre come una vergogna? Perché alla fine non c'è più neanche il posto per mettere queste cose e sono praticamente inutili, perché uno non può avere 10 cappelli tutti simili, anche dello stesso colore. Io soltanto, scusi, pensa un attimino meglio di un altro. Io ho soltanto abiti simili, io compro lo stesso tipo di pantaloni, lo stesso tipo di camicia, lo stesso tipo di giacca da almeno 15 anni e mi piace comprarli, sono delle sfumature minime. So che è da serial killer questo tipo di atteggiamento, ma noi cogliamo le minime sfumature in quegli oggetti che sembrano simili. Lì è la ricerca del gusto e lì è la passione malata del vero amante compulsivo della merce, no? Sicuramente. Ma anche in altre cose, magari anche nei tè, ad esempio. Nell'armadietto avere 20 tipi di tè diverso. Beh, quando vengono i suoi ospiti saranno felici, penso. Magari non glielo offro neanche. Se lo tiene per sé? Sì, ma non è detto che lo beva. Ma c'è un momento di piacere in tutta questa operazione di ricerca, di acquisto, di sì, palpeggiamento? Sicuramente, la confezione, la prima volta che lo provi. Poi Magari quando l'hai provato c'è la delusione. E questo diceva anche Casanova, però è chiaro, fa parte del gioco continuare continuamente e non fermarsi mai. Vabbè, auguri, in bocca al lupo. Anzi, resti in ascolto, perché abbiamo chiamato un illustre studioso di quello che lei chiama patologia, che normalmente si chiama patologia, che io chiamo ricerca esasperata di piaceri residui nel mondo del consumismo. Professor Roberto Pani, buongiorno. Buongiorno. Professore di psicologia clinica e psicanalista a Bologna, alma mater, autore del libro Le dipendenze senza droghe. Noi le stiamo ponendo davanti una casistica che lei conoscerà benissimo, la dipendenza da merce. Dobbiamo sentirla veramente come una colpa inconfessabile? Ma no, cioè nel senso che chiaramente c'è un gusto di comprare che innanzitutto di per sé è sano, perché insomma è un dono che uno fa a se stesso e quindi è assolutamente lecito e positivo. Poi c'è un collezionismo un po' più sfrenato, che mi sembrava di sentire la signora che si riferisse un po' a una tendenza ad accumulare alcuni oggetti per il piacere forse di avere un po' tutte le tipologie di un tè, e siccome ci sono dei vantaggi commerciali, prezzi che si abbassano, possono indurre a concedersi un po' di più, e anche qui non credo si debba provare più di tanto vergogna. Ecco, ma qual è l'estremo che lei conosce? L'accumulatore folle? È lo shopper compulsivo. Cosa fa? Definiamolo. Che passa quasi buona parte della giornata o comunque molto tempo nei vari magazzini, supermercati o negozi, che innanzitutto proprio nel senso del tempo, poi finisce per comprare come se avesse un attacco di bulimia, noi diciamo in senso alimentare, quando una persona, non so, svuota il frigo e compra tutto, mangia tutto quello che c'è, poi magari vomita o prende lassativi perché si sente. E lo shopper cosa fa? Fa la stessa cosa. E mette tutto dentro casa, cioè si riempie la casa di oggetti. Cioè compra oggetti che sono assolutamente insignificanti nel senso dell'utilizzazione successiva, cioè non si utilizzano mai, si riempiono armadi, non si sa più dove mettere le cose, e spendono una quantità di denaro eccessiva e che crea a volte dei veri e propri problemi economici familiari. Ecco, in questo caso noi sentiamo che c'è una patologia, perché il punto non è tanto l'oggetto in sé che interessa, ma è un'eccitazione. Un'eccitazione, come dire, adrenalinica, no? Adrenalinica, catecolaminica. Ma cos'è una compensazione? Adesso non vorrei entrare È come un livello, come un cocainomane che ha bisogno di sentirsi su, di sentirsi eccitato, di sentirsi up. Ma non arrivano mai a un parossismo, però un'eccitazione che rimane tale finisce lì, perché quando è il momento della soddisfazione? Un'eccitazione che poi naturalmente alla quale segue un down, una caduta e una depressione, un senso di vergogna e di colpa. Infatti la signora prima diceva: mi vergogno di acquistare le cose. Sì, insomma, una minima parte, quando uno acquista un po' di più di quello che sa che potrebbe o dovrebbe, eccetera, magari un minimo di vergogna, ma insomma qualcosa che è ancora tollerabile, mentre invece queste persone stanno proprio male. E stanno male e poi non riescono a risolverlo se non ricominciando a comprare, quasi come se negassero di averlo fatto ripetendo l'azione, cioè questo annullamento retroattivo che si chiama come meccanismo di difesa, come dire annullo quello che ho fatto precedentemente facendolo ancora, cioè non è vero che ho fatto qualcosa di grave, di assurdo, ma tant'è vero che lo rifaccio. Ma come, no? Un serial killer però. Sì, diventa infatti la compulsione è a questo continuo ripetere in modo stereotipato ed eccitante, più lo faccio più mi eccito, più cioè divento euforico, e poi lasciando il posto a un vuoto, una sensazione di inconsistenza, di depressione, di privazione del senso, insomma, perché l'ho fatto non lo so e mi sento nulla, mi sento di non valere niente, eccetera eccetera, e poi si ricomincia. Devo rifarlo. Da capo. Sentiamo se questo è il caso di Ubaldo. Ubalda, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ubalda, quanto è vicino a questa tipologia del compulsivo, dell'acquistatore compulsivo? Ma io non mi sento completamente una, come dire, una donna che acquista sempre in maniera compulsiva, cioè lo sono in determinati periodi, lo ammetto, anzi spero che mio marito non sia in ascolto, nel senso che ci sono dei periodi come... La cosa bella, Ubalda, che è la seconda signora al telefono dice che consuma il piacere dell'acquisto come fosse un adulterio. Lei si sente quasi di portare via qualcosa dell'affetto, del trasporto coniugale, dandolo alla merce e togliendolo al marito? Ma non so se poi, diciamo così, le ragioni profonde siano queste. C'è un paio di scarpe equivale a un amante, ecco, una cosa del genere. Sì, anche se razionalmente magari non lo vivo in questo modo, nel senso che evito di dirlo a mio marito, anche perché lui, insomma, è uno molto razionale, uno, come dire, che si bisogna comprare quello che occorre. Che noia questa gestione da ragioniere, ecco, del menage. Assolutamente. Però, ecco, io dicevo, in alcuni periodi dell'anno, ad esempio, questo per me è tremendo, sono già stata a Bressanone, Bolzano e Vipiteno, perché i mercatini di Natale, quindi tutto quello, io ho una collezione incredibile di oggetti anche molto kitsch, ma che ne so, il Babbo Natale sugli sci, piuttosto che... Quello sulla scaletta cinese ce l'ha? No, quello no, perché io devo dire la verità, un po' mi vergogno a dirlo in questo periodo, però sono sincera, mi piacciono le cose molto belle, quindi... Il Babbo Natale, quello che hanno tutti, o comunque, ecco, i negozi cinesi per esempio mi attirano poco, è qui che nasce poi il senso di colpa. Quindi maggiore, diciamo, Ubalda è un caso diverso rispetto a quello che abbiamo sentito prima, è una signora che ama la raffinatezza, ama i piaceri e siccome li sente come dei tradimenti profondi del suo debito coniugale, va a consumarlo lontano dal sacro focolare, perché qui aumenta il piacere e probabilmente è più raro la possibilità di essere scoperta in fragrante. Ci sentiamo tra un istante. 800 24 00 24, ditelo, ormai l'hanno detto tutti, quanto vi piace acquistare. Melog 2.0. È divertente che stiamo analizzando i luoghi del piacere, della lussura, dell'acquisto. Sono tantissimi, molto presenti i negozi dei cinesi. I cinesi hanno condensato a poco prezzo la possibilità di gratificarsi con luci, colori, apparecchi tecnologici, piccole protesi assolutamente inutili, ma ci danno l'impressione che in realtà il nostro corpo sia obsoleto se non munito di quelle protesi luminose. Poi Diana mi scrive su Facebook: per decenni mi sono dedicata all'acquisto bric-a-brac, vecchi mobili, tanto da arredarci praticamente casa. Ho speso quasi sempre pochissimo, però avevo l'occhio per i rigattieri giusti. Ora basta, casa straarredata, non ci sta più niente, ma è stato un divertimento folle, una passione pervadente. E poi abbiamo Giuliana, invece, che è della categoria delle persone che preferiscono guardare senza toccare, è una sorta di supplizio di Tantalo. Gli piace considerare il proprio piacere, vedi sofferenza, nel guardare senza arrivare mai all'atto finale, al compimento. È come una raffinatezza estrema, è quasi una tortura, è vero Giuliana? Pronto? Sì, ho parlato di lei. Buongiorno, no! Non se ne è accorta. Forse non ci siamo capiti. No, mi spieghi bene, io leggo questo. Deve comprare qualcosa, guardare e non compare nulla. No. Io esattamente il contrario. Ah no, invece lei... Chiedo scusa. No, io ho capito male. No. Sottolinea come atteggiamento masochistico quello del guardone della merce, ecco. Ecco. Lei è per la consumazione reale. Il suo è un atteggiamento, secondo me, masochistico, no? Perché lei inizialmente... Ma non mi diverte a me. Mi diverte più guardare che comprare, sinceramente. Ecco, invece a me è il contrario. Se io guardo e non compro, io soffro, quindi devo guardare e poter comprare. No, ma io ho un problema, glielo dico subito, visto che tanto non ho mai avuto pudore di raccontare me stesso. Il mio problema è il commesso, è l'essere umano che viene e vuole essere mediatore. Ecco, lo odio, lo prenderei a calci sulle palle, è impossibile. Non desidero nulla, voglio stare qua, il mio desiderio è stare qua in questo momento. Poi forse comprerò, non sono avaro, non sono taccagno, non ho problemi, non sono attaccato al denaro. Posso comprare, ma per far contento lui. È come quando vado al ristorante e prendo per forza l'antipasto, il primo, il secondo, la frutta, per far contento il piedi piatti del cameriere, quando in realtà non mi va nulla. No, questo non bisogna farlo, eh. No. Ma tanto non lo mangio. Io spero ci sia ancora il dottore in linea. Io vorrei dire anche questo. Ho sentito soltanto donne che telefonano per questo problema. Beh, io sono contento di questo. Sì, perché... perché le piacciono le donne, giustamente, sì. ma perché anche gli uomini hanno questi atteggiamenti così di voler acquistare? Probabilmente. Ma acquistando... gli uomini, guardi, le posso dire un grande segreto? Gli uomini sono molto più oscuri nel confessare le loro piccolezze, ecco, si vergognano. Ecco. Può darsi, e poi lo considerano questo, quasi un piacere femminile, si vergognano, dicono ma sì. Se io dimostro che ho il piacere dell'acquisto non sono abbastanza virile, quindi preferiscono raccontare loro debolezze su qualcosa che lo gratifichi veramente. L'uomo sì. acquistatore compulsivo si vergogna, ma entri in un negozio di tecnologia, ecco, di piccoli apparati. Stavo arrivando a quello, probabilmente loro acquistando queste cose non si sentono in colpa perché dicono è per la casa, è per la famiglia. Non è solo per me, non è la borsetta che la donna compra o il vestito che compra per se stessa, punto. No? Non lo so, aspetti, ferma, resti in linea. Sì. Emanuele, ecco, buongiorno, l'abbiamo beccato. Lei non si vergogna di raccontare assolutamente che... Assolutamente no. Ecco, perfetto, vede Giuliano. Io sono rimasto colpito dalla trasmissione perché recentemente mi sono comprato una giacca di fustagno lo so, solamente per l'odore. A me viene a dire. Ho fatto questo riferimento un paio di settimane fa. Io sono un collezionista di camicie. E sa perché compro le camicie? Perché quando io ho 18 anni all'università mi diedero la tradurre il grande Gatsby e rimasi colpito dal gioco che faceva Gatsby nel mostrare alla sua innamorata Daisy tutte le sue camicie. Io ho 60 camicie con la manica lunga, ma me le faccio fare su misura. Non me ne frega niente della famiglia, non le compro per la famiglia, mi perdoni, non me ne frega niente nel senso... No, ma ho capito. Non sono un acquirente perché devo motivare, no, per me. Per il mio piacere, sono quasi tutti uguali. Io spero che ogni tanto... Ho 35 camicie con la manica corta. Sì, ma scusi, no, dico, spero ogni tanto qualcuno condivida questo piacere della camicia con lei, perché se no darebbe più senso. Dice che sono matto, però sorride di questo, evidentemente. Il mondo non è fatto solo di mogli. È stato il periodo dello Swatch, mi sono comprato un centinaio di Swatch, che poi ho regalato, perché poi dopo un po' dice, ma questo qua, ma cosa te ne fai? Regalali. Ecco, l'acquistatore compulsivo. Non è un avaro, non ha quella tirchieria stitica delle persone. Quando che entro in un negozio, io se non altro per fare anche magari una cortesia, mi perdono, una cortesia al commesso, qualcosa gli compro. No, questo lo capisco benissimo, anch'io succede, faccia cose del genere. Perché trovo, mi viene il magone vedere una persona dietro il banco che lì che attende, questo qua che gira, compra qualcosa. Ma io le camicie me le faccio fare tutte su misura, scelgo la stoffa e le voglio tutte simili, tutte a bastoncino col collo bianco e il polsino bianco e cifrate tono su tono. Beh, vedo che ha una fierezza nell'esporre questa sua lussura che contraddice il fatto che gli uomini si vergognino di essere acquistatori compulsivi. Cos'è questa ipocrisia? Sono ricco, non è elegante dire queste parole, non ho problemi economici, sono un dirigente di un'azienda che non ha problemi economici in questo momento. Ma infatti non bisogna vergognarsi, assolutamente. E ci mancherà beato, mi sono preso una giacca di fustagno perché mi ricordava mio nonno che mi portava in campagna, Gesù. Ma questo lo dice perché ha sentito me che io 2 settimane no, fa dicevo questa cosa. No, perché è la verità, però mi sono fatto fare a questa giacca di fustagno già confezionata una piccola aggiunta. Mi sono fatto accorciare le maniche perché a me piace che dalla giacca esca il polsino bianco della camicia. Naturalmente. E mi sono fatto cambiare i bottoni, perché erano bottoni in velluto, un brutto velluto che non mi piaceva, ho fatto mettere i bottoni d'osso. Devo e dire che sono andati a scegliere io. Ci sono dei capi di abbigliamento da cui poi non ci separeremmo mai e ci dispiace quando ormai il tempo li consuma, li rende inindossabili e vorremmo riaverli uguali, con lo stesso odore e con la stessa sensazione di un abbraccio addosso quando ce li mettiamo. Sono pochissimi, sono rari, a me sono come i ricordi degni di essere ricordati, però ci sono. Grazie e Alessandro, buongiorno. Buongiorno a lei Gianluca. Io ho 38 anni, sono l'ex nipote, chiaramente che la nonna è passata a miglior vita, di una signora che ha avuto una merceria in un piccolo centro di provincia tra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 80. Quindi sono praticamente cresciuto lì e ho imparato a fidarmi dei miei istinti, insomma ho annusato creme ormai scomparse da decenni, ho annusato borotalchi, nomi impronunciabili, brillantine, linetti e quant'altro. E specie in questo periodo, vi ricordo, osservavo molto, anche con un certo divertimento, mia mamma e mia nonna che preparavano la vetrina per il Natale, una singola vetrina con una sola porta. E in questo piccolo centro vedevo che mia nonna non ha mai badato all'infiocchettamento sovraccarico, a ricoprire di orpelli come se noi prendessimo una brutta fotografia ritagliata da un giornale in cui si vede un giocatore di calcio con le mutande strappate, però con una cornice barocca in onice e oro antico, in cui insomma questa vetrina esponeva questi bei capi, perché erano sempre di qualità praticamente somma, destinati a persone che vedessero, soprattutto desiderassero vedere il valore intrinseco e non un valore aggiunto dato da, come diceva la prima signora che ha parlato, la signora Carla, non Paola, in cui insomma lei insegna fashion designer in una importante accademia di Firenze, e mi è venuto in mente... Scusi, ricordo il libro, visto che lo stanno chiedendo in molti, sono attratti da questo libro come se fosse la Bibbia che sconfessa ogni eresia, è La vendita visiva, Carla Tucci, Franco Angeli, strategie e tecniche di visual merchandising, quindi sicuramente è il libro che permetterà ai compulsivi di capire come è composta la trappola. Però la nonna del nostro ascoltatore già sapeva tutto, già conosceva tutto, non ha bisogno di studiare tecniche raffinate. Rita, buongiorno. Buongiorno, ma io intervengo dicendo semplicemente una cosa che è un po' sadica secondo me. Entro in un negozio... Quindi farà piacere a un sacco di persone. Entro in un negozio in modo abbastanza dimesso e quindi do l'impressione di gironzolare e non concludere. Ma si traveste da morta di fame oppure... Non è che mi travesto, magari sono proprio vestita da morta di fame perché non ho fatto in tempo, perché sono stanca, perché ho lavorato. Però tira fuori dopo la carta di credito Gold. Esatto, esatto, però praticamente mi vedono e pensano che sto facendo perdere del tempo, chiedo un articolo, qualche cosa, mi fanno vedere qualche cosina così, ma io so già che voglio quello che è più costoso e so quanto costa, e semplicemente dico no, ma questo non mi va bene, preferirei vedere qualcos'altro. Ma questo, signora, costa così. Ah, sì, bello, ma questo sì, mi potrebbe andare bene. Allora si prostrano e continuano a farmi vedere. Tu dici che spesso anch'io mi sento dire ma questo costa molto, evidentemente anch'io condivido con lei l'aspetto da morto di fame. Però è bello quando si tira fuori la carta di credito e si dice voglio quello, improvvisamente ci si sente la lingua sulla suola delle scarpe del commesso che ha capito di aver fatto lo sbaglio della sua vita. Grazie signora, la ringrazio, mi sembra abbiamo toccato tutti gli aspetti di questa patologia, fino a quest'ultimo più raffinato, e il vilipendio del commesso che si prostra di fronte al poveraccio che in realtà ha un potere d'acquisto immenso. Ringrazio Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti che hanno corposamente contribuito a questo delirio, e l'appuntamento questa volta veramente è a lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.